Suoniamo. Oh, oh. Buonasera a tutti, la Furia. Un gocciato di sorrisi, sogni di plastica, vetrine, voglio imposte con la frusta della comunicazione. Siamo quasi dietro dalla voglia di avere una sorgetta con un altro per esistere e non scomparire. La repressione silenziosa perché hanno capito che mai un telecomando, un moschetto puntato, un aromanzo di Orwell è molto peggio. Vesti di essere libero se lo stavo per me. Muore! Seppellito tra le rate di una macchina sportiva, comitando nella merda per raggiungere un benessere dettato da chi vuole poi rimetterla. Una massa di perfumato in carico, mangiando sul patricolo. Consuma! Tutto quello che vuoi e tutto quel che non hai. Consuma! Ma che colori? Liberi di scegliere da chi farmi sfruttario. Tengo più il senso di sorrisi e lacrime. Grafo sono aperto dentro l'era dell'immagine. Consuma! Tutto quello che vuoi e tutto quel che non hai. Consuma! Tutto quello che hai prima o poi ti possiede. Tutto quello che hai prima o poi ti possiede. Ti possiede! Le cose belle che ho non sono cose, desideri che non puoi comprare in banconote. Se possedere è uguale a esistere, tu vivi per qualcosa che domani non sarà che polvere. Polvere! Non sarà che polvere! Polvere! Grazie, regà. Forse un po' ispia l'altro cantante. Sì. Un po' lui ispia. Su tutte le spie un po'. Ah, ah, oh. Sì, sì. Una passione, attitudine selvaggia mia, un sentimento travisato dalla vostra non cultura, pace, amore nel campo, ora al palato. Nasci puro come un pezzo di diamante, non si nasce con la furia dentro. L'odio cresce a poco, figlio dell'ingiustizia in ogni dove, a casa, a scuola, sul lavoro, in ogni centro dove c'è potere. L'odio che passico da quando l'ho capito non è quello per la pelle o per il credo.

grazie, raga. Mai commesso il primo passo verso un ricatto congegnato, controllato socialmente col baratto del perdono, costruiscono la colpa e danno a soluzione in dono. Fai ancora avanti, marchiato col battesimo, indottrinato a scuola, soldato di un esercito di rassegnati in terra, ti aspettano idee migliori dopo vite nelle quali sempre ricalpestano. Oggi alleno mente e corpo e costruisco i miei comandamenti, un senso a Dio padrone di se stesso. Oggi non prego e non aspetto che il tuo fantascio degli umani super cielo ascolti il mio lamento. Vola più su, oggi nel nuvole in cielo, lato tra le stelle, lato tra i limiti, adesso sa che non c'è Dio senza uomo, vola dove la paura dell'ignoto muore. Più su, oggi nel nuvole in cielo, lato tra le stelle, lato tra i limiti, adesso sa che non c'è Dio senza uomo, vola dove la paura dell'ignoto muore. Raga. Questi sono gli ultimi due. Vi salutiamo. Vogliamo ricordare che sabato prossimo c'è un altro bel concerto per sostenere l'assemblea per l'organizzazione. Ai Po, a Marino sempre. Vogliamo ringraziare il nostro totem e guru Ermedallica, che d'ora in poi sarà sempre con noi. Modello albero di Natale. Poi lunedì pomeriggio c'è un appuntamento ad Albano per impedire l'ennesima sfilata nazifascista. Questa è una cover del Colle del Fomento. lo sai che spacca, la strofa che ti rappa e la tua testa flippa. Adesso canta tu, vediamo chi è che strippa. Faccio rap, solo rap, tu ci ridi sopra. Ci giochi ma con rap non ci si gioca. Sai che flippa hardcore, solo hardcore per questo. Se non ti piace è una questione di testa, non solo di gusto, quindi vai, non ti do quello che vuoi. Zero name, zero gambe sopra il colle. Sol cattombi boy. Niente storie strane, troppe cose a puttane. Troppa gente che cambia due settimane. Io resto sordo, cieco, muto. Pure se mi prendi a botte in testa, resto qui seduto e rido. Non ho motivo per alzarmi, per confrontarmi. Se vuoi dammene uno tema, non cercare di fregarmi, perché sto cercando di lasciarti so che cosa che rimane dentro la tua testa se non lo cancello. Perché flippo solo hardcore, non regalo niente perché flippo solo hardcore. Perché flippo solo hardcore, non regalo niente perché flippo solo hardcore. Perché flippo solo hardcore, non regalo niente perché flippo solo hardcore. Perché flippo solo hardcore, non regalo niente perché flippo solo hardcore. Boom. Non regalo niente, solo hardcore, 10-100.000 volte. Pure se è pesante devo essere forte. Sempre solo steccolare con una sigaretta accesa. Carta e penna nella stanza chiusa e non c'è scusa, solo hardcore. Guardami negli occhi, cerco un modo per stare bene. Giorni amari troppi, chi non ha niente a dire è meglio che non dice niente. Quel che sento mi fa fiare a male, sempre più pesante. Fatti umano, bere qualche cosa mi rimane. Se parli parli in faccia, se non sei in fame. Non vali di cosa cazzo, troppo in giro. Non puoi comprarmi perché scrivo, quindi sono vivo. In testa vedo scioccalati, tu non puoi vedere. Aspetto il giorno perché notte ma non puoi capire. E non mi puoi seguire, è una questione di mentalità. Se c'è solo la facciata, la casa non solo hardcore. Non regalo niente perché flippo solo hardcore. Perché flippo solo hardcore. Non regalo niente perché flippo solo hardcore. Perché flippo solo hardcore. Non regalo niente perché flippo solo hardcore. Perché flippo solo hardcore. Non regalo niente perché flippo solo hardcore. Non lo puoi fermare, se la parco al pacro, non lo puoi fermare, se la parco al pacro, non lo puoi fermare, se la parco al pacro, non lo puoi fermare. Questa è la parco al pacro, ma non lo puoi fermare, se la parco al pacro, non lo puoi fermare, se la parco al pacro, non lo puoi fermare, se la parco al pacro, ma non lo puoi fermare. Oh, l'ultima, e poi se levamo dal cazzo. Lasciamo spazio a Godzilla. Questa si chiama Assalto al cielo. Rivoluzione, sparare agli orologi, bloccare gli ingranaggi della produzione, trovare il proprio passo, un ritmo adatto non imposto dal bisogno di profitto, prendersi il tempo, reinventarsi il tempo, c'è della terra sotto quel cemento e c'è una spiaggia sotto quell'asfalto, c'è poco caldo dentro un cuore spesso, voglio più tempo libero d'avanzo, farò saltare in aria la gente, pause e pranzo, assalterò il cielo di domani, chiuso dentro i sogni dei tempisti e giochi dei bambini, balenando speranza nel cuore miseri, consumando d'angoscia e ricchi, chiamano limiti fin dove arrivano, chi si spinge oltre un provocatore, tempa mossa dal furore, la furia è sempre il seno, chiamalo rumore. Sparare gli orologi, assalto al cielo, prendere indietro il tempo, assalto al cielo, guardarsi dentro, assalto al cielo, chiamano chiesa, chi segue l'impossibile. Sparare gli orologi, assalto al cielo, prendere indietro il tempo, assalto al cielo, guardarsi dentro, assalto al cielo, sparare addosso a chi lo rende raggiungibile. Il tuo denaro mozza ore come te, se si costa del mio tempo avido come fosse suo. La mia vita accelera come una via, sul percorso già presa finito, da cui non puoi scappare. E se te l'hai altro pronti manganelli, centri di genere mentale e lucchetti ben oliati, a guardia di un esistere artificiale dove profitta il sommo giudice tra bene e male. E allora voglio inseguire un concetto di normale, di possibile, che non sia galleggiare nella corrente della consuetudine, nascosto tra le convenzioni per non essere additabile, immaginando l'impossibile, muovendo passi verso il concreto, un'utopia raggiungibile. il più potente potere che abbiamo, vedere dove non c'è ancora niente, un nuovo potenziale. Sparare gli orologi, assalto al cielo, prendere indietro il tempo, assalto al cielo, guardarsi dentro, assalto al cielo, chiamano Zeppa, insegna l'impossibile. Sparare gli orologi, assalto al cielo, prendere indietro il tempo, assalto al cielo, guardarsi dentro, assalto al cielo, sparano addosso a chi lo rende raggiungibile. Grazie a tutti, regà, la furia. Ancora non c'avemo il CD, ma se volete c'avemo le magliette che stanno al banchetto che non avevamo ancora messo. Gli orologi, assalto al cielo, prendere indietro il tempo, assalto al cielo, guardarsi dentro, assalto al cielo, chiamano Zeppa, insegue l'impossibile. Sparare gli orologi, assalto al cielo, prendere indietro il tempo, assalto al cielo, guardarsi dentro, assalto al cielo, sparare una dosa a chi non è raggiungibile. Grazie a tutti. Grazie a tutti e a tutte, baci e abbracci.